Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, oggi parliamo di un mostro sacro del giornalismo italiano, Indro Montanelli, che troviamo in un appassionato libro di Paolo Di Paolo, si intitola Tutte le speranze. Montanelli raccontato da chi non c'era, pubblicato da Rizzoli, 220 pagine, 17 euro. Di Paolo, classe 1983, ha subito un grande fascino ed è stato un grande ammiratore di Indro Montanelli. Comincia nel 1994, giovanissimo, a raccogliere quasi religiosamente La Voce, l'ultimo quotidiano al quale Montanelli aveva dato vita dopo aver abbandonato il giornale. Poi, quando Montanelli ritorna al Corriere, dove tiene la rubrica quotidiana di lettere con i lettori, scrive frequentemente alla rubrica che appunto Montanelli teneva, ricevendo frequenti risposte. Pubblica anche delle lettere apocrife, come una firma addirittura Karl Marx. Si crea così fra l'autore di questo libro e il grande vecchio un'empatia molto particolare, di cui questo libro è certamente una testimonianza significativa. Il libro va a ritroso dal 2001, l'anno della scomparsa di Indro Montanelli, fino al 1909, l'anno della sua nascita, per cogliere gli avvenimenti più significativi di cui adesso parliamo con l'autore. Buonasera Paolo Di Paolo. Buonasera. Paolo Di Paolo, questo libro rappresenta il frutto, non solo questo per la verità, del fascino che ha esercitato su di lei Indro Montanelli. Ecco, che cosa ha rappresentato nella sua vita Montanelli? Ma per chiunque sogni il giornalismo da lontano, credo che valga ancora oggi per chi ha 15 anni e magari immagina che un giorno farà questo mestiere ovviamente cambiato in modo incommensurabile rispetto a quello dei tempi di Montanelli. Beh, insomma, per chi sogna questo mestiere, Montanelli rappresentava per me, e credo rappresenti ancora oggi, un mito, una leggenda, non fosse altro che perché teneva quella lettera 22 sulla scrivania, lettera 22 su cui aveva battuto articoli memorabili e soprattutto legati ai grandi protagonisti del secolo. Quindi ai miei occhi di ragazzino era soprattutto questo. Io non capivo bene quale fosse stata la sua storia, la sua vita, non ero attrezzato per giudicarla anche da un punto di vista politico, ero semplicemente abbacinato da questa maestosa presenza che era lui, novantenne, perché effettivamente quando io ho cominciato ad avvicinarlo ero un ragazzino quindicenne e lui stava per compiere 90 anni. Lei in quel momento voleva fare il giornalista, poi ha opportunamente deciso di cambiare idea. Sì, ho cambiato strada e forse questo, beh, insomma, una strada che costeggia sempre quella del giornalismo. In qualche modo scrivo per i giornali, insomma, non ho fatto il giornalista di professione, ho scelto poi la letteratura, e questa scelta forse effettivamente ha a che fare anche con la scomparsa di Montanelli, esattamente nel luglio di 13 anni fa, nei giorni in cui a Genova infuriava la battaglia che poi avrebbe visto anche la vittima, appunto giovane, Carlo Giuliani. Montanelli moriva e io compivo 18 anni in quel 2001. Forse anche la morte di Montanelli, mi arrivo alla maggiore età con questo passaggio, poi ha segnato anche, come dire, questa disaffezione per il mio stesso sogno di giornalista. E allora effettivamente ho ricostruito a distanza di anni poi questo mio legame con Montanelli, che era fatto anche delle lettere che appunto gli scrivevo quando lui teneva questa rubrica che si chiamava La Stanza sul Corriere della Sera. Come lei ricorda nel suo libro, all'epoca Montanelli fu vittima di un diffuso pregiudizio politico, contrario ovviamente. Che cosa la fece avvicinare a Montanelli di più? La simpatia politica, la simpatia per le sue posizioni politiche o la maestria di giornalista? Sicuramente la maestria di giornalista, proprio perché, come le dicevo, non ero così attrezzato a capire Montanelli su un piano politico. Certo è però che effettivamente, pur essendo io ormai insomma adolescente nei tardi anni 90, quindi distante dall'Italia in cui Montanelli veniva visto come il fascista, come il reazionario, devo dire che parlando della mia passione per Montanelli anche in un contesto liceale della provincia di Roma, diciamo, risentivo di alcuni pregiudizi che evidentemente si erano un po' cristallizzati. Montanelli ancora nei tardi anni 90 per una certa parte passava per il reazionario, per il conservatore. Certo, parallelo a questo bisogna dire che poi invece la sua stagione anti-berlusconiana, così per semplificare, invece gli aveva guadagnato simpatie anche dai suoi antichi detrattori. Ecco, parliamo di questo, del rapporto con Berlusconi. Lei dedica varie pagine del suo libro a questo aspetto, fra l'altro scrive che ha tentato di parlare con Berlusconi per avere un po' la sua idea su questo rapporto. Lei che idea si è fatto? Ma a me sarebbe piaciuto intervistarlo, cosa che è stata impossibile, non per metterlo, diciamo, in difficoltà sulla questione del divorzio, ma invece per fargli raccontare, cosa che lui effettivamente non ha mai fatto diffusamente, la loro amicizia dei primi tempi, negli anni 70, appunto, quando lui Berlusconi finanziò il giornale di Montanelli che era in difficoltà. Che idea mi sono fatto? Mi sono fatto l'idea intanto che c'era naturalmente un forte protagonismo di entrambi questi due parti in causa. Sicuramente non dico che è stata una lotta tra prime donne, perché sarebbe riduttivo. Montanelli però ha visto molto in negativo questa discesa in campo di Berlusconi, non soltanto credo su un piano di limitazione della propria libertà, a cui sicuramente forse andava incontro, ma anche su un piano, così, diciamo, di ombre che potevano gettarsi su di lui nel momento in cui avesse continuato a fare il direttore, pur mantenendo una parvenza o una effettiva libertà. Berlusconi l'ha sempre raccontato a modo suo, anzi ha insistito anche per il quarantennale del giornale a dire che in fondo è stata una scelta di cecità di Montanelli, che non ha capito. Non so bene come sia andata effettivamente, e credo che ci sia ancora molta baruffa intorno a questo divorzio. Però appunto poi Montanelli arriva al paradosso che nel 94 viene invitato da D'Alema alla festa dell'Unità e viene travolto dagli applausi per quello che scriveva in quegli anni su Berlusconi. Quindi questo è il coronamento di una carriera in cui effettivamente è riuscito a dividere tutti, compresi i suoi sostenitori. Applausi che probabilmente l'avranno divertito, per vedere appunto come il consenso dipendesse dalla posizione politica che si assumeva. Sì, applausi. Beh, lui pare che insomma poi abbia detto, arrivando sul palco, qualcosa come: mi sembra che si sia ribaltato il mondo. Perché vedere questi applausi naturalmente è qualcosa che fa pensare veramente che l'Italia sia completamente cambiata. Però lui poi invece disse esattamente questo, dice: non sono cambiato io, semmai appunto sono cambiate le poste in gioco, è cambiato insomma il fondale di quest'Italia. Lui era rimasto lo stesso effettivamente. Ecco, infatti questo aspetto viene colto nel ritratto finale che lei fa di Montanelli. Lei parla di ostinazione a esserci soltanto in forza del proprio stesso nome, senza sponsor, senza alleanze, senza cedimenti. Il mondo intorno a te cambia, si distrae, smette di sorriderti. Non intendi blandirlo. Effettivamente il vecchio Montanelli era così. Sì, a me pare che si possano fare ovviamente mille obiezioni a Montanelli sulle singole scelte, su stagioni della sua vita, sull'adesione iniziale al fascismo, insomma su tante cose. Ma quello che bisogna riconoscergli è questo, è che io trovo davvero ammirevole, soprattutto oggi in cui effettivamente senza sponsor e senza alleanze è molto difficile farsi strada. A me pare che questi grandi solisti della cultura, del giornalismo, della cultura, penso alla Fallaci, penso a Montanelli, possono certo dividere su tante questioni, ma hanno dalla loro un aspetto che oggi possiamo davvero soltanto ammirare: questa capacità di difendere appunto lo spazio della loro stessa solitudine, di rilanciare sempre con questa ostinazione a esserci, come appunto lei ricordava, e naturalmente mettendoci sempre la faccia, adesso per semplificare, voglio dire, non appartenendo mai a nient'altro che non fosse il loro nome e cognome, Indro Montanelli, Oriana Fallaci. Oggi essere giornalisti in questo modo è sicuramente più difficile, ma non solo tanto per colpa, come dire, per difetto dei giornalisti, perché naturalmente tutto è molto, molto mutato. Però mi piace vedere, come se fosse uno spettacolo del cielo, diciamo così, un uomo della provincia di Firenze che attraversa quasi un intero secolo. Lui, ricordiamo, muore a 92 anni e c'è sempre in tutte le Italie. L'Italia cambia, cioè l'Italia degli anni 50, quella degli anni 60, quella del terrorismo, lui viene gambizzato dalle Brigate Rosse nel 77, l'Italia del craxismo e quella di Berlusconi, e Montanelli c'è sempre, riconoscibilissimo e popolare, senza mai perdere, diciamo così, il contatto con i suoi lettori. Perché l'ha definito il nostro Truman Capote? Ho provato, forse è un azzardo, perché Truman Capote sta in uno spazio, diciamo, letterario sicuramente più solido, ma Montanelli, che era anche uno scrittore, non dico mancato, ma insomma era uno scrittore sotto il giornalista, secondo me è stato autore negli anni 50 e 60 di ritratti, i famosi incontri, diciamo, con i protagonisti della cultura, dello spettacolo, della politica, che valgono, a mio avviso, quanto possono valere anche alcuni ritratti di Truman Capote. Penso allo straordinario ritratto che Truman Capote dedica a Marilyn o a Gide, e se uno prende ritratti che Montanelli fa di Anna Magnani, per prendere una diva del nostro cinema, o dello stesso Gide, beh, si accorge che effettivamente questa freschezza della penna, questa cattiveria spesso un po' recitata, questa capacità di andare al dettaglio, anche un dettaglio che non era magari del tutto vero ma verosimile, illuminava di una luce di volta in volta calda oppure spettrale oppure un po' inquietante questi protagonisti del tempo, insomma, di Montanelli. E oggi naturalmente forse servono le note a piè di pagina per leggere alcuni di questi ritratti, però se uno pesca quelli che non sono invecchiati, i cui personaggi sono ancora riconoscibili, insomma, prende Dalì, prende Alberto Sordi, prende, veramente ritrova una capacità straordinaria di raccontare gli uomini che potrebbe mettere Montanelli vicino a un'esperienza come quella di Capote. Montanelli si definiva un toscanaccio, voleva che fosse ricordato come tale. Che cosa fu la Toscana, la toscanità per Montanelli? Ma qualcosa che probabilmente adesso non voglio neanche troppo, diciamo così, ridurre a qualcosa del tutto così esteriore, la sua appartenenza geografica, così la sua anagrafe toscana. Però sicuramente era un tratto che ribadiva, per quanto fosse uscito presto poi dalla provincia toscana, lui era nato appunto a Fucecchio, a pochi chilometri da Firenze, se n'è andato presto, perché già comunque nei tardi anni 20, primi 30, già se n'era andato a Parigi, poi insomma fa la sua vita di giornalista soprattutto a Milano. Beh, insomma, gli era rimasta questo legame intanto con una terra scabra, diciamo così, no? E quindi appunto il paesaggio evidentemente ha anche a che fare con un certo carattere. E poi sicuramente del toscano, del toscanaccio, del maledetto toscano, per citare il suo eterno nemico Malaparte, aveva anche questa vocazione alla rissa, diciamo così, alla divisione, allo scontro, un atteggiamento burbero, finto burbero, che poi naturalmente alimentava di continuo polemiche anche con quelli che lui considerava i suoi amici, penso a Guareschi, penso a Longanesi. Ha passato una vita a litigare più con i suoi amici che con i suoi nemici. Poi si fece adottare però da Milano. Poi si fece adottare da Milano e riconoscevano che senza Milano Indro non sarebbe diventato Montanelli. A questa città teneva molto e credo anche la città l'abbia molto amato, insomma lo riconosce dentro lo spazio così ideale dei grandi milanesi adottivi. Oggi i giardini di Porta Venezia portano il suo nome, c'è anche una statua che insomma a me non sembra bellissima ma che comunque lo ricorda, e Montanelli è veramente legato a Milano ha fondato il Giornale, ha fondato La Voce e Milano è anche il Corriere della Sera. Grazie a Paolo Di Paolo, autore di Tutte le speranze Montanelli raccontato da chi non c'era. Buona serata. Grazie a lei, grazie. Sullo stesso Corriere della Sera aveva tenuto prima di Montanelli, negli anni 1974-75, una rubrica di corrispondenza con i lettori, un altro grande scrittore italiano, Goffredo Parise, e alcune delle sue risposte troviamo nel libro Dobbiamo disobbedire, che è pubblicato da Adelphi, 76 pagine, 7 euro. Molti sono i temi affrontati in queste risposte, in questo dialogo con i lettori. Per esempio, viene affrontato il tema della lettura. Parise risponde a una signora, la signora Morucco, che gli chiede quali libri deve, in corsivo sottolineato, far leggere ai suoi figli restii alla lettura. Risponde Parise: nulla, e spiega qui come la lettura non possa essere qualche cosa che si impone, ma deve piuttosto nascere da una passione sincera, una fascinazione, scrive Parise, che deve nascere negli interessati. Parise venne anche criticato per mischiarsi in questo colloquio con la gente comune, i tempi appunto di Montanelli erano ancora lontani, e il fatto che un letterato dialogasse con la gente normale non piaceva a tanti lettori. E proprio su questo Parise ha parole durissime, scrive infatti queste parole: questo mio paese è l'Italia molto bella dei più, non il meschinissimo paese dei meno. Quello dei meno è un paese dove non si nasce, non si mangia, non si ama, non si vive, non si fa nessuna cultura, dove non si respira nemmeno l'aria, perché prima bisogna fiutare le arie che tirano e solo dopo si respira. Questo non è il mio paese. Il mio paese è l'Italia, piena di calore animale, quella ignorata dai poveri snob, dove mi piace vivere e scrivere. E poi Parise parla di tanti altri temi, della carriera politica, della democrazia, della povertà, della cultura, individuando appunto quelli che sono anche alcuni mali dell'Italia, fra i quali la distruzione che l'Italia conduce di se stessa. Parise scrive infatti: l'Italia non vuole essere più l'Italia, gli italiani non vogliono più essere italiani, gli italiani non vogliono più essere italiani perché vogliono essere ancora meno che regionali, vogliono essere paesani, paesà, perché l'unità d'Italia oggi c'è meno che mai. Oggi l'Italia è spezzata non in staterelli ma in lotti. Per gli italiani di oggi, non di ieri, l'Italia è il lotto. Il proprio terreno, la propria villetta, il proprio bicamere e servizi costruiti da geometri o finti architetti secondo i propri gusti e soprattutto in materiali pressoché eterni come il cemento armato, che diano a quei poveri corpi e a quelle povere anime senza stato l'illusione di averne uno indistruttibile. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Parlavamo di Montanelli, un altro grande giornalista della sua generazione, una sorta di contraltare dal punto di vista politico-ideologico di Montanelli fu Giorgio Bocca, che morì 10 anni dopo Montanelli nel 2011. E di Giorgio Bocca torna una delle opere più famose, Togliatti, dedicato al segretario del Partito Comunista di cui pochi giorni fa è stato ricordato il 50° anniversario della morte, che avvenne a Yalta. Il libro è pubblicato da Feltrinelli, 646 pagine, 22 euro. L'opera di Bocca su Togliatti fu molto discussa, frutto di una documentatissima e molto accurata ricerca condotta assieme a Silvia Giacomoni. Come ricorda un grande storico, Luciano Canfora, in occasione del conferimento della laurea honoris causa a Bocca, quest'opera però è un libro che giustamente fece epoca, scrive infatti Canfora. A Bocca dobbiamo la prima narrazione documentata dell'attrito tra Togliatti e Stalin, quando Togliatti respinse l'invito a dirigere il Cominform. Era un monumento a Togliatti, politico e statista. E non di meno i chierici mugugnarono. Addirittura Canfora ricorda che l'Unità, che allora era il giornale del Partito Comunista, rifiutò di pubblicare la pubblicità di questo libro nel 1973, salvo qualche anno dopo, nel 1992, regalare lo stesso libro ai propri lettori. Togliatti fu un uomo spregiudicato, per esempio nell'abile gestione del caso Gramsci. Scrive Bocca che nella vita politica Togliatti ha sempre navigato tra due poli decisivi per la sua formazione, Gramsci e Stalin, e con l'operazione Gramsci, cioè col popolarizzare gli scritti di Gramsci, raggiunse Togliatti l'equilibrio ottimo. Gramsci gli servì per dimostrare agli italiani che la strada presa dal PCI è consona agli interessi dell'Italia, Stalin per dare la certezza che questa strada porta alla vittoria. E Bocca ricorda anche i processi ideologici staliniani in cui Togliatti fu coinvolto dopo un iniziale tentativo di mantenere dei margini di manovra. Infatti Bocca ricorda come Stalin nel 34 recupera Togliatti al grande gioco politico, ne fa uno dei massimi dirigenti del Comintern, gli chiede contemporaneamente però di teorizzare il terrore di compiere il salto qualitativo e quantitativo, e tutto il gruppo dirigente, aggiunge Bocca, dell'Internazionale, che elabora la nuova ideologia, ma Togliatti viene una parte di primo piano. Ecco come Bocca sintetizza comunque l'esperienza di Togliatti. C'è una definizione molto semplice dell'uomo data da suo fratello Eugenio, il matematico, che può aiutarci a trovare una risposta. Palmiro era di quelli che fanno presto a formarsi un carattere, un modo di pensare, e poi non lo cambiano più. Eugenio ha ragione. Suo fratello è stato uomo di tempi lunghi e la risposta va cercata in tutto l'arco della sua vita, nello sforzo incessante, spesso tragico, per salvare nel realismo la dignità intellettuale, per non perdere di vista quali che fossero gli avvenimenti e la loro ferocia, la stella polare del movimento politico che voleva mutare gli italiani nel modo di essere e di sentire. Il racconto della sua vita sarà dunque il racconto di questa volontà tenace, duttile, all'occorrenza impietosa e spregiudicata, per sopravvivere personalmente e per far vivere il movimento nel corso di avvenimenti sotto il cui peso molti, moltissimi, rimasero schiacciati. È una volontà politica che potrà non piacere alle anime belle e sulla quale si potrà eccepire e dissentire, ma che è parsa a milioni di contemporanei, al proletariato italiano dopo la Resistenza, degna del furore e del cordoglio popolari. E di Togliatti esce da Castelvecchi il libro Il rinnovamento democratico del paese, curato da Aldo Agosti, 138 pagine, 17,50 euro, che raccoglie tre storici discorsi del segretario comunista nell'aprile del 44 a Napoli, nel luglio dello stesso anno a Roma e poi del 1960 a Torino, tre discorsi nei quali spiegò anche retroattivamente, come nel caso di Torino, la cosiddetta svolta di Salerno, la scelta cioè del Partito Comunista di partecipare assieme agli altri partiti alla rinascita democratica dell'Italia, anche partecipando al governo in cui poi lo stesso Togliatti sarebbe stato ministro guardia sigilli. Quella di Salerno fu una svolta clamorosa, una scelta che venne all'inizio molto discussa e che suscitò sconcerto presso la sinistra non meno che presso gli altri partiti. Per esempio Benedetto Croce commentò così questa scelta: è certamente un abile colpo della Repubblica dei Soviet vibrato agli angloamericani, perché sotto colore di intensificare la guerra contro i tedeschi introduce i comunisti nel governo, facendoli iniziare iniziatori di una nuova politica sopra e contro gli altri partiti che si troveranno costretti a seguirli senza che quelli provino il minimo imbarazzo. E qui, in questi discorsi, appunto, Togliatti spiega le sue ragioni. E il primo discorso, quello di Napoli, troviamo citato nel libro dello storico britannico Donald Sasson, che si intitola Togliatti e il partito di massa, il PC dal 1944 al 1964, pubblicato dallo stesso Castelvecchi, 422 pagine, 25 euro, tradotto da Franco Salvatorelli e Nicola Zippel. E quella di Togliatti, secondo Sasson, fu un esempio molto particolare, molto interessante di leadership. Scrive infatti lo storico che Togliatti rappresentava un affascinante caso studio nella leadership moderna, non il leader di successo che vince tutte le battaglie, ma il perdente che riesce a contenere le sconfitte, lo stratega che trae il meglio di una situazione sfavorevole, il realista che, pur avendo speranze, rifiuta di sprecare tempo inseguendo sogni impossibili. Quindi anche questo libro spiega, attraverso le scelte di Togliatti, la strategia del Partito Comunista e illustra le vicende storiche dell'Italia in quel periodo che proprio 50 anni fa avviava l'esperienza del centro-sinistra. Un altro leader comunista, abbiamo ricordato qualche settimana fa in occasione del trentennale della morte, cioè Enrico Berlinguer, di cui Emiliano Sbaraglia ci dà un ideario. Questo è il titolo del libro, Ideario Berlinguer, passione e parole di un leader scomodo, pubblicato da Nova Delphi, 174 pagine, 9 euro. Questa è una sorta di piccolo vocabolario in cui per ciascuna voce troviamo una breve introduzione e alcuni brani dello stesso Berlinguer, una figura alla quale l'autore si accosta in un momento molto particolare della propria vita. Il papà sta molto male e, assistendolo, il figlio scopre un archivio casalingo sul leader comunista che conferma il forte attaccamento della base del partito per Berlinguer. E interessanti nel libro sono due testimonianze, in particolare una a Emanuele Macaluso, che qui non nasconde alcune sue riserve sulla politica di Berlinguer e anche sull'interpretazione dello stesso autore di collegare la svolta di Berlinguer che avvenne nel 1980, la svolta cosiddetta dell'alternativa democratica, proprio a quella di Togliatti del 44. La seconda testimonianza è un'intervista a Luciana Castellina, che dal Partito Comunista era stata espulsa e avrebbe poi contribuito a fondare il Manifesto e che pure non lesina le riserve, da sinistra ovviamente, alle politiche di Berlinguer. Nulla da segnalare invece per il 60° della morte di un altro grande leader politico, Alcide De Gasperi. Non è uscito alcun libro che lo riguarda. Una testimonianza interessante su Berlinguer e per l'eccezionalità soprattutto del punto di vista è quella di Antonio Maccanico. Il libro si intitola Compertini al Quirinale, Diari 1978-1985, il libro curato da Paolo Soddu e pubblicato dal Mulino, 592 pagine, 36 euro. L'autore, scomparso l'anno scorso, fu un protagonista della finanza e della politica italiana e ci dà qui uno spaccato in particolare della politica dall'interno del Palazzo più importante. Maccanico infatti fu segretario della Presidenza della Repubblica, appunto con Sandro Pertini, il presidente che portò nel palazzo un soffio di aria nuova, suscitando anche molto entusiasmo. Un entusiasmo che a un certo punto impensierisce lo stesso Maccanico, preoccupato da due punti di vista. Innanzitutto che le troppe attese che suscitava la figura di Pertini potessero poi declinare in una grande delusione e il grande distacco che l'entusiasmo, appunto, per Pertini sottolineava nei confronti del resto della classe politica. Quella di Maccanico risulta quindi essere un'esperienza unica e mette in luce vari aspetti della presidenza e anche della figura di Pertini, per esempio il suo caratteraccio che qui si manifesta in tante occasioni, per esempio in una letteraccia, così la definisce Maccanico, che Pertini scrisse a Montanelli, di cui abbiamo parlato poco fa, che lo aveva attaccato probabilmente in una delle famose controcorrente, la rubrica che teneva sul giornale. Pertini fu anche capace di iniziative abbastanza inconsuete che oggi susciterebbero grande sconcerto, come questa per esempio relativa alla proprietà di un giornale privato, il Corriere della Sera. Sentiamo che cosa successe. Gianni Agnelli ha poi parlato del Corriere della Sera. A suo giudizio, un gruppo di industriali puliti in grado di fare lo sforzo necessario per comprarlo non esiste. Vi sono i vari Cabassi e Bagnasco, ma riguardo a questi è meglio che il Corriere rimanga dov'è, perché le cose andrebbero peggio. L'unico gruppo che a suo giudizio potrebbe fare l'operazione rilevando il Corriere anche ad un prezzo alto è il gruppo Generali. A questo fine sarebbe necessario che il presidente Pertini, che ha un grande ascendente su Merzagora, ovvero l'uomo più influente delle generali, sollecitasse l'intervento. Mi ha detto che di questa idea era al corrente solo il ministro Andreatta. Gli ho risposto che a me sembrava eccellente, ma vedevo un ostacolo nei rapporti tra Merzagora e Craxi, pessimi, e nel fatto che Mediobanca, forte azionista delle generali, sarebbe stata contraria. Ho riferito al presidente, il quale mi ha subito detto di essere favorevole a un'iniziativa del genere. Ultimi arrivi. Vi segnalo innanzitutto un titolo americano di Robert Payne Warren e tutti gli uomini del re, pubblicato da Feltrinelli, 572 pagine, 22 euro, tradotto da Michele Martino. Questo è un libro del 1946 di un grande scrittore americano morto nel 98 che ebbe uno straordinario successo proprio con questa opera, in cui si parla della curiosa avventura di un improbabile governatore di uno stato del sud degli Stati Uniti che diventa molto popolare per le misure adottate a favore delle classi più povere, ma che si rivelerà poi una figura molto molto discutibile, che troverà un collaboratore insospettabile in un giornalista assai snob che ne subisce il fascino. È un'importante opera narrativa che è molto popolare negli Stati Uniti, e lo prova il fatto che da questo libro sono state tratte due riduzioni cinematografiche nel 1949 e nel 2006. Un oggetto che dal quale non ci saremmo separati certamente in queste settimane di vacanza è il cellulare, che troviamo nel libro di un professore britannico, John Agar, che si intitola Sempre in contatto, storia sociale del telefono cellulare, pubblicato da Dedalo, 16 euro, 240 pagine, tradotto da Chiara Alberghetti. Un oggetto che ormai è al centro della nostra vita, di cui nel libro scopriamo i risvolti sociali anche attraverso la descrizione di varie esperienze in diverse parti del mondo. E infine vi segnalo un nuovo personaggio poliziesco, il commissario Renzi, catapultato da Milano a Napoli, dove lo accoglie un orribile delitto natalizio da risolvere. Il libro di Nicola Manzoi si intitola Gli amanti di Vico Sanseverino, i delitti del barbiere, è pubblicato da Tea, 326 pagine, 13 euro. E a questo punto... Il confettino. Di Annalisa Strada, docente e scrittrice di libri per ragazzi, segnalo L'isola dei libri perduti, Einaudi ragazzi, 186 pagine, 11 euro. Quattro ragazzi in cerca di evasione da un'isola che li opprime, i cui sforzi per recuperare la libertà avranno una svolta dalla fortunata scoperta di una biblioteca segreta che rafforzerà il loro anelito alla fuga e alla libertà. E con questo ringrazio Lorenzo Nespoli, redazione, Filippo Aureggi, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica unlibro@radio24.it e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.